Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Tutto Tranquillo. Con noi oggi, in vista del concerto di domani, c'è Silvia Cignoli. Ciao Silvia. Ciao Silvia, Ciao. dove? Ciao a voi, ciao a voi. Come stai? Tutto bene, in preparazione. Bene, che bello, no? Ci vuoi raccontare un pochino che cosa succederà hai un tema da portare? Allora, sì, il tema, allora il concerto in realtà è appunto nominato Sublimation, che è anche appunto uno dei titoli dei brani che andrò a suonare. È un po' una raccolta di brani, un brano diciamo abbastanza vecchio, per così dire, un po' un brano che amo molto suonare negli anni, che cambia un po' forma, ma comunque porto in giro nei live da un po' di anni. E insieme a questo ci sono altri brani più o meno inediti, quindi un brano proveniente dal mio ultimo disco e altri brani, insomma, altri brani inediti. Quindi il concerto appunto si chiama Sublimation perché è un po' questo, quello che un po' attraversa tutta la musica e questa sensazione appunto come dire, di innalzamento verso l'alto in qualche modo. E quindi anche il concetto di, in qualche modo, di evaporazione della materia sonora che appunto si disfa e diventa vapore, impressione, ed è un po' appunto una cosa che attraversa spesso la mia musica, quindi questo. Poi eseguirò anche un brano che in realtà è stato una commissione per il premio Fellegara 2024. Quindi è un omaggio a Fellegara, ma in realtà anche a Bach. E così, insomma, un po' questo è riassumendo l'idea del concerto. Ecco. Beh, mi sa che sarà un bel viaggio. Dai, speriamo. La parola lo sembra. E hai detto suonare anche un brano del tuo ultimo disco che è uscito, se non erro, l'anno scorso, giusto? Sì, nel settembre 2024, sì. Disco molto, molto, molto bello che consigliamo a tutti di andare assolutamente ad ascoltare, perché anche quello è stato per me un bellissimo viaggio, quel disco è molto, molto bello. Sì, è stata la volta che conobbi Silvia musicalmente, fu proprio tramite Francesca che mi disse: guarda, vai a ascoltare questo disco, parlando già un po' di mettere in piedi questa rassegna, e ne rimasi folgorato perché dissi: oh mio Dio, proprio bello, sì, proprio un gran bel disco, gran bel disco. Tu Silvia, molti magari non lo sanno, chitarrista, giusto? Esatto, sì. Sì, Di derivazione, immagino, anche classica. di derivazione, i miei studi sono classici, quindi sì, esatto. È sempre questa, anch'io derivando da studi classici, c'è sempre questa risatina Un po' sì, isterica. esatto. Voler dire molte cose. Chissà cosa vorrà dire. Esatto, Le risatine sì. isteriche si rivanno avanti. Finirà così la puntata, Sì, si ovviamente, con risatine contagia, esatto, per simpatia, inteso in più sensi, per risonanza, per esatto. risonanza, esatto. Sì, no, vabbè, per dire, sì, esatto, comunque sì, vengo dalla classica e è stato appunto il percorso del conservatorio. In realtà io ho fatto la civica, che vabbè, non era all'epoca pareggiata, ma insomma gli esami poi si davano in conservatorio, quindi era uguale il percorso. E sì, no, è stato formante, è stato totalizzante per tantissimo tempo. I tempi in cui mi ricordo i tempi in cui si studiavano appunto le nostre 10 ore al giorno, in cui finivi la settimana con un dolore alle mani, ma non finivi la settimana in realtà, perché era tutto un grande studio, insomma. Però insomma, dal punto di vista del suono, del timbro, della profondità, diciamo, di visione, mi ha dato tantissimo, insomma, e In realtà poi mi piace un sacco insegnare musica classica, mi piace un sacco suonarla, poi la vita spesso quando insomma cominci a far pendere la tua bilancia di interessi lievemente da una parte, poi alla fine della fiera le cose ti capitano sempre più in quel versante, quindi volente o nolente diventi un po' quella cosa lì. A discapito di altro, però in realtà io adoro suonare, insomma, quando mi capita lo faccio con tanta immersione. Ma quando è successo, quando, insomma, quando è avvenuto per te questo click verso un po' di più, ecco, il mondo della sperimentazione sonora e anche dell'unione e dell'avvicinamento alla musica elettronica? Ma allora, in realtà, cioè io lo racconto spesso, è abbastanza, non lo so se sia particolare, però quando ero alle medie c'era questo docente di educazione musicale che un giorno ci fece ascoltare Pierre Lunaire di Schoenberg e tipo a me si è aperto un universo, cioè mi piaceva tantissimo ascoltare questi suoni lunari. E mi immaginavo proprio di essere all'interno di qualche ambientazione scomposta, di camminare in in questi detriti astratti e non meglio identificati. E questa cosa mi ha proprio colpito tantissimo. Da lì praticamente tutta la musica contemporanea è diventata per me una fonte di forte attrazione. Quindi finché sono stata poi in conservatorio, grandi cose con la contemporanea non le potevo fare. Però sempre la passione, andavo ai concerti così, oppure frequentavo anche insomma, l'ensemble di musica contemporanea della Civica di Milano. E dalla musica contemporanea, quando ho potuto poi diventare un interprete di quel repertorio, il passo poi diciamo, a conoscere anche la chitarra elettrica e quindi un po' i dispositivi, insomma, a giocare un po' con le possibilità elettroniche, il passo è stato abbastanza. No, in realtà non è stato per niente breve, però diciamo che pian piano, insomma, da che ho cominciato appunto a poter interpretare la musica contemporanea via via, un po' dopo l'improvvisazione, con l'improvvisazione, un po' piano piano anche col fatto di rendermi conto che in realtà potevo comporre in qualche modo con i miei mezzi, con le mie risorse, con il mio gusto, pian piano, insomma, sono entrata anche nell'ambito un po' elettronico, insomma, chitarra elettrica e dispositivi. Quindi questo è stato un po' il riassunto del percorso. Un bel riassunto, affascinante. Grazie. Naturale più che altro. Cioè, doveva andare così, come lo Sì, racconti. in realtà la cosa era strana perché quando ero un interprete di musica contemporanea proprio dicevo, ma io non potrei mai comporre, non potrei mai fare qualcosa di mio. Cioè, come creativa io sono solo un interprete, solo, cioè, Madonna, senza nulla togliere. Però sono un interprete, cioè non potrei mai comunque mettermi a fare. Invece, piano piano si scoprono cose di se stessi che evidentemente c'erano, ma non le vedevamo, forse. Ah sì, ma spesso e volentieri magari ci si fa dei problemi di, non so come spiegartelo, ma dei problemi del non essere capaci di, per paura di un confronto, probabilmente magari anche con se stessi. Però spesso magari il non prendersi sul serio sempre per forza e costantemente aiuta anche nel liberarsi di certi timori che ci autocostruiamo per poter poi darci la libertà di, boh, creare qualche cosa al momento, quindi essere sì. Autori o Sì. comunque sperimentatori, perché poi magari autori è già stato inventato, è già stato suonato tutto, anche quella è una cosa che comunque mi aiuta parecchio. È un pensiero che mi hanno dato nell'ultima residenza che ho fatto, in cui ero con questo artista che mi diceva: ma tu fregatene, tanto hanno già fatto tutto e inventato tutto, quindi non è che fai una cosa nuova, falla e falla bene, tanto l'hanno già fatta. Ed è falla e falla tua e falla diventare, falla con onestà. Sì. Molto bello. Ciao Sì, molto vero. Roberto. Grazie. No, è vero. Poi adesso secondo me c'è più libertà in questo senso. Qualche anno fa c'erano più stigmi dal punto di vista della composizione, della creazione di musica. Adesso i ruoli si stanno un pochino, cioè, secondo me per fortuna stanno diventando più fluidi, quindi l'interprete può anche, come dire, diventare creatore. E una volta era un po' più difficile, eri un po' visto come, forse un po' in maniera un po' più naif, come un... Non eri accreditato come adesso, insomma, adesso c'è, cioè, secondo me questa cosa qua sta migliorando, quindi la Anche libertà. da percorso accademico, dici, no? Posso, esatto, posso dire una cosa da non accademico, Bravo, voi sì, due. bravi, sì, brave, sì, avete, sì, esattamente, È sì, un era la pensiero specifica che probabilmente ci deriva sta. dal tuo studio, quello forse, sai, dalla durezza e dalla magari anche non durezza, ma incapacità di comprensione che spesso c'è in un mondo accademico, che è un po' Già. a volte più frustrante che costruente. Non so se sono stato. E quindi magari Sì, finisce, cioè nel senso che tutti i ragazzi che conosco che hanno fatto degli studi accademici, miseria se li hanno bastonati in quegli anni, cioè va bene la severità nello studio e che ci siano, ma far uscire delle persone frustrate da anni di studio di conservatorio piuttosto che di danza o meno, madonna mia, sembra veramente che piaccia distruggere le persone. Invece che costruire a livello artistico le massacrano. Salve a tutti quelli docenti del conservatorio, un abbraccio, non mi risentirò mai. no, beh, dipende, diciamo che sì, massacrare, se trovavi la persona giusta ti massacrava positivamente, però con l'idea di diventare un professionista, con un obiettivo forse poco, diciamo, poco, come dire, più mirato a diventare perfetto, per esempio come esecutore o come compositore di un certo tipo di musica, quindi poco contaminato nell'essere artista, ecco. Monodirezionale come percorso, cioè proprio essere chiusi dentro questa stradina stretta che va però velocissima verso l'obiettivo di un po' riuscire a fare molto bene tutti la stessa cosa, anche forse allo stesso modo, perché c'è un modo giusto di farle, che poi penso, almeno per quanto poi mi riguarda, è il motivo per il quale tanti iniziano a voler aprire più porte e a dire: aspetta un attimo, però se io questa cosa invece di farla così la faccio completamente all'opposto, sperimento cosa può succedere. E quindi poi lì si aprono tante vie che uno poi decide quali, come, quando e dove percorrere. Però sì, il Vero. corso accademico ti forma tantissimo, però è anche molto imbrigliante, ingabbiante, non so se può rendere come termine o se esiste, però non so se si è capito. Sì, si è capito. Abbastanza chiaro. Mentre io ho una domanda perché stavo preparando la playlist, perché come sempre in tutte le nostre puntate, dopo l'intervista parte questa mezz'ora di playlist selezionata dall'artista che si esibisce nel concerto. E la stavo ascoltando, anche lì torna fuori un po' tutto lo studio tuo, nel senso che la scelta dei brani è molto ampia, cioè divaga parecchio, è bella come ascolto. Sono molto interessanti. Infatti, mi avevi scritto tutto intimorito, ma io ho messo questi, ma gli ho detto no, assolutamente. Tanto poi dovrei giustificarle uno a uno. No, uno a uno Sì, no. aspetta che riprendo la playlist, eccola qua. ricordarmi cosa ho inserito. Però sì, no, hai ragione, effettivamente ho messo delle cose diverse, ma allora, in realtà quelle più diverse che sono appunto, penso, appunto l'esecuzione di Elisa Lamarca, della Pavana di Holborn. Elisa Lamarca è una bravissima liutista che vive a Milano. Ho inserito lei, che un po' si stacca appunto dal resto della playlist, e forse anche il brano di Francesca Bono, Black Horse. Francesca Bono invece è una cantautrice molto brava che io adoro. Loro due, faccio proprio una piccola digressione anche per spiegare, perché sono così diverse. In realtà sono due ascolti che ultimamente mi hanno molto colpito e avevo deciso di inserirle nella... Io curo da 2 anni, spero anche vada avanti, insomma, una piccola rassegna nel paese in cui vivo, a Pozzo d'Adda, che è tra Milano e Bergamo. E, la stagione l'ho chiamata Sonica Eterea e mi piaceva proprio inserire... dei soli prevalentemente di persone che avessero un carisma tale da poter sostenere appunto un concerto in solo e che avessero una, cioè nel loro modo di fare musica o nella loro musica una componente particolarmente, come dire, emotiva o comunque di una capacità di immergere insomma l'ascoltatore in una situazione anche, non dico meditativa, ma comunque che avesse qualcosa di spirituale, di raccolto, ecco, di raccolto con il pubblico. Per cui loro sono state le mie due scelte perché mi piaceva il fatto che questa cosa, queste caratteristiche che vi ho detto, fossero prese da generi differenti. E secondo me loro due ce l'hanno questa cosa, perché Francesca Bono ha questa voce un po' sognante, un po' quasi dream pop. E Lisa è un'interprete meravigliosa, il liuto è uno strumento che comunque fa volare, quindi ho voluto inserirle anche in questa playlist. Poi c'è anche appunto Stefano Pilia, che anche lui, insomma, se tutto si conferma, io spero, abbiamo quasi tutto confermato, quindi sarà anche lui ospite. Adoro il suo ultimo disco, questo brano che ho inserito, insomma, ci sono gli archi. Infatti è l'ensemble Concordanze che lo suona, quindi anche lì c'è un forte rimando al classico, mentre gli altri brani sono appunto brani che per qualche aspetto insomma, mi hanno colpito, ecco, non so se sì, appunto c'è appunto Andrea Porcu che ha fatto questo brano meraviglioso, L'immensa solitudine delle montagne, che è il suo album, in realtà. Il brano si chiama La voce del vento, che è un brano che mi ha molto impressionato perché appunto è molto, molto meditativo, molto sognante. Poi ne seguono altri, da Visio a Martina Bertoni, ai Labradford, insomma, ce ne sono effettivamente abbastanza variegati. Ah, bello, però molto, te l'ho detto, un bel viaggio sonoro, molto interessante. Bene. Esatto. Ma, e poi adesso dovrei raccontare in 4 minuti e mezzo. Cos'è Sì. che stai provando a organizzare? Festival, hai detto? Sì, io faccio da 2 anni, questo è il secondo anno, una piccola rassegna che si chiama Sonica Eteria, appunto, a Bello. Pozzo d'Adda, che è questo paese dove vivo, piccolo ma con delle potenzialità. Come? La fai? Che periodo è questa rassegna dell'anno? Ottobre. Perfetto. Stiamo per confermare. Tra l'altro, le location dovrebbero essere quest'anno molto particolari, delle chiese medievali qui della zona, quindi insomma, penso che possano, come dire, ampliare tutto il senso, perché insomma, luoghi storici che si fanno un po' rivivere sotto questa nuova forma per quelle occasioni. Super. Allora direi che dopo questa rassegna atmosferica ci vedremo tutti alla rassegna organizzata da Silvia, dottore. Assolutamente sì, appena confermano. Esatto. Niente, Silvia, Grazie grazie cuore per questa chiacchiera, è stato super piacere. Noi non vediamo l'ora di sentirti domani. E adesso vi lasciamo a questo bellissimo ascolto di cui ci ha parlato Silvia, un bellissimo viaggio. E niente, grandissimo abbraccio, Silvia. Grazie di cuore. a domani e buona domani. giornata. Un Buon abbraccio ascolto. ancora. Ciao, ciao a tutte e tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Thank you. Autumn leaves falling.